24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Sandrino Zanardi, detto Alex, 48 anni, pilota di Formula 1 nella prima vita, poi scrittore, conduttore televisivo, oro paralimpico. Ha sbancato Londra, trionfato nella maratona di New York con il record di 1 ora 13 minuti 58 secondi. Un record così incredibile che gli organizzatori hanno pensato di escluderlo dalla prossima edizione. Adesso è diventato un Iron Man, con una corsa pazzesca fatta di 3 specialità, 4 chilometri a nuoto, 180 chilometri in bicicletta, 42 di corsa. Ecco Zanardi, ma mi spiega come si diventare Iron Man? Una corsa pazzesca. Innanzitutto occorre desiderarlo, e desiderare di fare una cosa del genere, non tanto di arrivare al traguardo. Ma che gara è? È una gara bellissima, tra l'altro quella a cui io ho avuto la fortuna di partecipare, alla finale mondiale di Kona, una gara molto ambita dai triatleti di tutto il mondo, un po' il loro santo graal. Alle 4:15 del mattino ritrovarsi lì per la marchiatura, quasi fossimo uno dei bovini che andavano al macello. Ma in realtà ti facevano il timbro, ecco, vedere il pubblico che già ti incitava quell'ora. Ma nuotare 4 ore così, senza gambe, come si fa? A forza di braccio, si fa di necessità virtù, ma in realtà io credo che affrontare un impegno del genere senza le gambe, dopo tutto quello che è già accaduto nella mia vita, rappresenti da certi punti di vista una semplificazione, non una complicazione. Ah, sì. Una semplificazione. Perché le mie braccia sono belle allenate. Ah, io nel sonno mi giro anche un po' come una cotoletta di notte, lo faccio a forza di braccia e non è che mi sveglio, ormai è il mio istinto, le mie braccia sono diventate, hanno sostituito in certi casi anche egregiamente le mie gambe. Senti, ma sei arrivato a 247esimo su 2187, la maggioranza di quali erano normodotati, insomma un miracolo, è fatto fuori tanti. Insomma, ce n'erano tanti che magari prima del via mi davano la classica pacca sulla spalla, come dire, che bravo l'esempio, e poi alla fine, dietro. Mi guardavano un po' indispettiti. Ma i momenti più duri quali sono stati? Momenti più duri, alcuni legati a degli imprevisti, sicuramente il vento, in particolare dopo il giro di boa, nella porzione ciclistica c'era un tratto in discesa in cui il vento è stato davvero pericoloso. Ho visto davanti a me alcuni ragazzi volare letteralmente buttati a terra da delle ventate improvvise. Hai mai pensato di mollare, Zanardi? Durante quella gara no. Ho dovuto, mio malgrado, ma neanche su quella salita finale. No, in quell'occasione ho dovuto, mio malgrado, insomma, mettere le dita sulla leva del freno, cosa che non amo fare per natura, e rallentare un po', perché come dicono gli americani, to finish first, first you have to finish, per finire prima devi finire. Però sì, sicuramente è stata una gara durissima, sono molto orgoglioso di quello che ho fatto, ma sono arrivato perché ero già convinto prima ancora di partire che era fattibile. Ecco, ma tu hai sempre corso solo per vincere? No, assolutamente, io ho sempre corso cercando di fare tutto quello che potevo per provare a vincere, che credo sia la giusta filosofia, molto poco decubertiana, ma è quella giusta. Poi vinci o perdi, chi se ne frega, vince uno solo, si sa. Ma è vero che questa, un'equipe per nutrirti ha preparato una borraccia che conteneva l'equivalente di 10 piatti di pasta asciutta? Sì, un'equipe molto competente, perché è un'equipe italiana che fa capo all'equipe Enervit, che ha fatto questo prodotto innovativo che poi adesso, diciamo, è stato fatto anche per le mie necessità di avere le mani libere, perché io con le mani devo spingere le leve, non è che posso prendere una borraccia, eccetera. E quindi in una borraccia è stata sciolta una soluzione con maltodestrina di nuova generazione, che è un prodotto molto semplice ma che resta abbastanza fluido anche in altissima concentrazione. Ma gli atleti che si dopano sono dei traditori secondo te? Beh, quello che abbiamo spiegato non c'entra nulla col doping, a scanso di equivoci. Però sì, assolutamente sì, io credo assolutamente sì. Ecco, tu dici, l'ho letto, che se un giovane vuole vincere nello sport per i soldi, per le veline che incontra, non ce la farà mai. Può forse farcela se pensa di divertirsi, vero? Sì, lo è ancora di più per un ragazzo. È che un ragazzo, quando raggiunge la massima maturità da un punto di vista fisico, madre natura ha fatto un po' un errore, la testa è ancora molto indietro. Quindi capita che magari qualcuno con i capelli bianchi che gli sta di fianco a livello manageriale gli dia dei messaggi sbagliati e quello ci casca. Senti, tu Zanardi sei figlio di un idraulico, di una casalinga. Ecco, ma correre in kart prima e in auto poi costa molto. Come hai fatto? Mio papà diceva che col go-kart, mantenere il go-kart costava come ingrassare un maiale savoiardi. E in effetti tanti sacrifici, tanta passione, però papà li ha fatti, come li ha fatti mia madre che lavorava tutta la notte per fare le camicie, perché mamma faceva la sarta soltanto per pagarmi le gomme di quel go-kart. Mamma mia. Eppure alla fine un bel giorno mio padre mi disse: guarda, se ho fatto tutto quello che ho fatto, l'ho fatto perché un bel giorno ti ho trovato addormentato dentro il go-kart invece che con i tuoi amici in discoteca. Quindi, sapevo che quello ti avrebbe spinto lontano. Senti, tu hai detto una volta: ho visto quel film Nato 4 luglio con Tom Cruise che stava sulla carrozzella, ho pensato se succede a me mi ammazzo. Poi invece non l'hai fatto, per fortuna. La tua seconda vita è incominciata in un ospedale di Berlino e hai resistito a tutto, ma a cosa soprattutto? Beh, al dolore, perché all'inizio ne ho patito davvero tanto, dopodiché giorno dopo giorno le cose sono andate sempre migliorando, questo mi aiutava molto perché sapevo che comunque il peggio l'avevo già lasciato alle spalle. E davvero io credo che in certe situazioni bisogna trovarcisi, perché quando mi feci quella domanda evidentemente non ero stato serio fino in fondo, era molto superficiale, era proprio della serie tanto a me poi non accadrà mai. Certo. Ma avere il dottor Costa come angelo custode, quanto è stato importante per il tuo recupero? Fondamentale. Perché? Cosa ti ha insegnato o dato che non avevi? Ma punto primo, io ho sempre praticato delle attività in apparenza individuali, ma che in realtà si fondavano su un lavoro di squadra, certo, assolutamente. Certo. E quindi anche in quella circostanza ho cercato di fare squadra attorno a me, dopodiché la gente tende a restituirti quanto tu sei in grado di dargli. Costa è straordinario da questo punto di vista, credo qualche merito di averlo, nel senso, certo, che evidentemente se gli sono amico anch'io credo di avergli dato qualcosa, però lui parla di te come però, si può parlare di una persona meravigliosa. Guarda, rubo due secondi per raccontare un aneddoto. 16 operazioni di anestesia totale, inizio della riabilitazione, una goccia di sangue, una ferita che non ne vuole sapere di chiudersi. Costa mi porta a fare un eco Doppler particolare da un ecografo veramente bravo, insomma si scopre che c'era una vena che non si era chiusa, non si era suturata, si trattava di aprire 40 giorni di degenza, disastro. Non ha dormito tutta la notte, il giorno dopo mi ha col pollice, abbiamo rifatto l'ecografia e la vena si chiudeva, quindi lui mi ha fatto una fasciatura, ha messo un rotolo di garza in quel punto, una fasciatura strettissima. 5 giorni dopo abbiamo ripetuto l'esame e la vena si era chiusa. Ha inventato la soluzione. E tante volte è l'uovo di Colombo. Senti, ma tu credi in Dio o qualcosa del genere? Assolutamente sì, mi rifiuto di credere che siamo solo figli di una fortunata combinazione chimica. Senti, cosa significa avere fede nella vita per te? Oggi. Ma per ognuno di noi è logicamente una cosa diversa. Cioè, nel mio caso te, specifico, infatti, non ha avuto nulla a che vedere con la tecnicità di quel che mi è successo, perché certo, ho sempre ritenuto che le mie protesi andavano regolate con la chiave a brugola da 4 mm, non dovevo guardare in alto e chiedere aiuto al Signore. Però ho avuto anche degli scambi di vedute abbastanza accesi. Quello più interessante, quando è che l'hai sentita forte la mano di Dio nella tua vita? Guarda, stava accadendo proprio questa cosa che ti ho raccontato prima. Di Costa, eccetera, quindi non era un bel momento. In più mia moglie doveva essere operata all'indomani, un intervento delicato, ernia al disco, quindi vanno brutto a stuzzicare in un punto dove se toccano il filo sbagliato poi viene a fare le gare di handbike con me, no? E mio figlio quella sera aveva un'otite pazzesca, mia madre un raffreddore che disastro, non gli si poteva, insomma alle 3 del mattino mio figlio piangeva disperato, il giorno dopo avrebbero dovuto operare mia moglie, io ho messo come mi ero messo, ho guardato in alto, ho detto: oh, hai veramente rotto le scatole, sei un bravo mollo. Sarà stato l'Aulin, no, quello che gli avevano dato, non lo so, non me lo ricordo. Però le Ferragamo, volevo dire, però mio figlio a quel punto si è addormentato, l'operazione il giorno dopo è andata bene e Costa si è inventato quella soluzione. E tu hai chiesto scusa. E a mia mamma è pure passato il raffreddore. Senti, hai detto che fare lo sport aiuterebbe molto me a fare la politica meglio. Perché? No, io credo che un politico potrebbe facilmente, insomma facilmente fra virgolette, diventare uno sportivo avrebbe un percorso molto più particolare. Tu ci hai mai pensato a fare Io mi ci hanno fatto pensare, sì, ma sono abbastanza convinto di voler rimanere distante da questo mondo, non perché lo ripudio, anzi, certo. Beh, ma perché lo rispetto troppo. Ecco, ma dimmi una cosa, ho letto che secondo te anche i politici però dovrebbero fare una sorta di giuramento di Ippocrate. Ecco, ieri abbiamo sentito il giuramento del nuovo presidente, ma il giuramento di Ippocrate cosa vuol dire per te esattamente? Beh, mi rifaccio anche al merito della domanda precedente, cioè qual è il comune denominatore tra le due cose? Una cosa la puoi fare veramente bene soltanto se la fai con coscienza e con attaccamento a determinati valori. Rispetto delle regole, punti che non vuoi in modo imprescindibile superare. Ecco, sì. Nello sport è così, perché se allunghi la mano quando gli altri hanno la testa girata dall'altra parte, anche se la fai franca, poi un bel giorno guardi quella medaglia, che cos'è che ti ricorda? Che, vale che hai rubato. Certo. Ecco, e io credo che nella politica questo sia quanto più mai vero, per cui se fanno giurare un dottore, perché sanno benissimo che chiedergli di rispettare delle regole è una cosa, ma appellarsi alla sua coscienza è una cosa ancora più forte. Ecco, per un compito così importante bisognerebbe chiedere di fare la stessa cosa anche ai politici. Quando avevi 13 anni, tua sorella Cristina è morta, ne aveva 16, in un incidente di motorino. Fare il pilota è stato un modo di reagire a quella morte anche? No, una cosa paradossale, ma una delle ragioni indirette per cui ho iniziato a correre, perché i miei genitori mi volevano tenere lontano dalla strada proprio per quello che era accaduto, e decisero che il go-kart era un modo più sicuro per farmi sfogare in pista. Senti, ma la Formula 1 resta rischiosa e magica come era in passato o è cambiata? No, è sicuramente cambiata tantissimo dal punto di vista del rischio. Beh, certo, non stiamo nemmeno a fare dei paragoni. Briatore dice che la Formula 1 è brutta oggi, è d'accordo, sei d'accordo? Ma io sono più così possibilista, insomma. Ti piace? È meno bella, ecco, meno diciamo bella. Così, è meno bella. Forse le auto più belle in assoluto sono state quelle che io ho avuto la fortuna di guidare di inizio anni 90. Senti, un anno e mezzo dopo l'incidente tu hai voluto tornare sul circuito dell'incidente per fare quei 13 giri di pista che ti mancavano per concludere la corsa. Ma perché? Perché era una bella opportunità, perché comunque... Non si lascia niente a metà? No, quello no, io ne ho lasciate tante di cose a metà, ma non ho rimorsi per questo. Però quella era una bella cosa, era una bella opportunità per ritrovarmi nel mio elemento, e fu un momento molto bello. Ma con che auto l'hai fatto? Beh, non con la stessa che avevo guidato quel giorno, perché quella era irrecuperabile. Però con un'auto, stesso modello, preparato allo stesso modo, negli stessi colori, per cui anche... Emotivamente lì a guardare, è stato un momento. Io l'ho rivissuto negli occhi e nei racconti degli altri. E è stato un momento bellissimo. Andavi forte? Beh, a dimostrazione che l'uomo è una macchina incredibile. Io, dopo mezzo giro, mi sono sentito davvero a casa, ero nel mio ufficio. Tant'è vero che in 13 giri cronometrati feci un tempo che mi sarebbe valso il quinto posto sulla griglia di partenza della gara che stava per iniziare. Accidente. Senti, Zanardi, dopo l'incidente tu sei stato molto a lungo in coma, buio totale? Sì, io non ho visto nessun tunnel, non c'era nessuno dall'altra parte che mi chiamava, però poi 8 giorni dopo mi sono svegliato, meno male. Ma ne hai qualche ricordo? Nel tempo riemerge qualcosa? No, io ho rivisto le immagini dell'incidente con curiosità. E si vede da alcuni filmati che io tento di aprire la visiera, slacciarmi le cinture, quindi in quel momento evidentemente io avevo ancora coscienza di quello che stava accadendo, e devo aver anche pensato: oddio, ho fatto un bel casotto qua. Poi però è andato via tutto, anche perché io ho fatto più di 50 minuti con meno di un litro di sangue in corpo. Pazzesco, che scientificamente è inspiegabile. Ho avuto 7 arresti cardiaci, i medici che erano sulla pista hanno fatto davvero un lavoro incredibile, così come i medici che mi hanno accolto all'ospedale. Per bloccare l'emorragia? Sì, mi fu data anche l'estromunzione addirittura, quindi sono già pronto pur senza nessuna fretta. Senti, poi un giorno ti sei convinto a prendere la bike, com'è andata? Anche questa è una cosa molto casuale, ero Brands Hatch, guarda caso il luogo che ha poi ospitato il nostro evento paraciclistico ai Giochi Paralimpici di Londra. Ero lì a correre con l'auto, mi fu chiesto di andare a rappresentare una delle aziende che io così rappresentavo a New York in occasione della maratona e dissi, beh, visto che vengo a New York faccio pure la maratona. È nata veramente per scherzo e non sapevo nemmeno come si chiamasse questo attrezzo, ma poi tre medaglie d'oro a Londra. Però lì è iniziato tutto. Poi tre medaglie d'oro a Londra. Sì, diciamo che in mezzo ci sono tante cose, perché sì, certo, lì arrivai quarto, fu un esordio anche sorprendente, i giornali già scrivevano Zanardi a Pechino, perché l'anno dopo ci sono... Però presi anche un quarto d'ora, più di un quarto d'ora dall'unico atleta competitivo che era in gara. Perché poi tre livello... medaglie d'oro a Londra, quelle sono lì e restano. Cosa ha significato per te quelle medaglie d'oro? Un momento bellissimo ma altrettanto triste, perché io quando ho tagliato l'ultimo traguardo comunque sapevo che quel momento chiudeva un capitolo meraviglioso della mia vita, certo, che non è iniziato a Londra. Londra per me è iniziata nelle montagne, nelle colline attorno casa, negli allenamenti, nel preparare, certo, nel piacere di prendere ogni giornata come un'occasione per aggiungere qualche cosina, certo, che giorno dopo giorno è diventata una roba grande, tanto grande che le ho pure vinte, certo, io volevo solo partecipare e mai avrei immaginato di poterlo fare nella mia vita. Senti, a Londra un atleta famoso, Schwarzer, è stato trovato positivo al doping e squalificato. Tu cosa pensi di quella vicenda? Purtroppo uno dei tanti, non è mica l'unico, quindi di lui si ce è parlato tanto. Sì, purtroppo uno dei tanti, perché ripeto, quando tu hai poco più di 20 anni è per facile. Per la ragione che dicevi tu. Sì, prima, perché la gente ti dice, ma lo fanno tutti, e quindi ti senti in automatico quasi. Ma secondo te la squalifica della Costner, che ha testimoniato in quel modo per amore, è giusta, non è giusta? Hai un'idea? Credo che sia opinabile se la squalifica può. Oddio, quello che ha fatto la Costner può essere chiamato un errore, questo è opinabile. La misura, secondo me, è stato un errore, cioè troppo. Un errore da parte della procura. Sì, è assolutamente esagerato, inspiegabile. Senti, ti pesa la responsabilità di essere un esempio da imitare, cioè un eroe dei nostri tempi, in fondo? Ma no, perché io so di essere un po' il frontman di tante altre brave persone che magari si alzano mattina con 38,5 di febbre, vanno comunque al lavoro, danno la colazione ai figli, li portano a scuola e vanno al lavoro perché c'è una famiglia da sfamare. Solo che loro fanno molta più fatica di Zanardi, perché Zanardi non si deve grattare la testa e trovare il modo di mettere sui maccheroni giorno dopo giorno. Viva Dio, nella vita, insomma, certi problemi li ha già risolti. Senti, ma la felicità oggi cos'è per te? Ma la felicità è poter rimanere curiosi, cercarsi nuovi orizzonti da inseguire, mettersi al lavoro con entusiasmo, perché anche se c'è tanto lavoro da fare, quella è la felicità, non è quello che trovi. Ma quanto ti alleni al giorno? Mediamente direi 2 ore abbondanti, anche perché il lavoro sull'hand bike è comunque un lavoro davvero completo e quindi hai la possibilità di stressare i muscoli, tutti i muscoli, e esattamente nel modo in cui il tuo allenatore ha deciso quel giorno, quindi lavori di forza, di resistenza, di velocità. Senti, hai detto che i campioni più amati spesso non sono quelli che hanno vinto di più, ma quelli che hanno saputo offrire delle emozioni, le emozioni più forti. Mi fai un esempio di campioni che ti piacciono in questo senso? Beh, io ho avuto il piacere di raccontare la storia di Gimondi, un uomo che nella propria vita ha trovato il cannibale che era Merckx, eppure si è seduto, ci ha ragionato sopra e ha detto, sai che c'è, io posso soltanto fare il mio e farlo al meglio delle mie possibilità. Arriverò secondo sempre, invece ha vinto qualcosa. E invece alla fine è riuscito a vincere, quasi fosse, come posso dire, la storia scritta da un abilissimo autore, per un in cui realmente riesce ad aver ragione di tutto e di tutti proprio quando è quasi a fine carriera, a vincere il Tour e il Giro in modo sorprendente. È una storia bellissima. Bello, poi bello. Gli ho stretto la mano, è stato molto bello. Senti, c'è un grande campione come te che adesso è in carcere per aver ucciso, mancano le gambe anche a lui, Pistorius. Tu che idea ti sei fatto di quel caso, di quella storia? A parte che la verità che conosciamo noi è solo quella degli uomini, quindi certo, già certo, per questa ragione è comunque imperfetta. Detto questo, mi viene da credere che evidentemente noi tutti abbiamo un punto di rottura e quindi quando lo passi smettiamo di essere quelli che credevamo di essere. Senti Zanardi, ti capita spesso di rimpiangere il periodo prima dell'incidente? Ma non nella forma in cui magari la gente sarebbe portata a crederlo, cioè mi viene piuttosto da dire, caspita, se in quella gara non fossi arrivato lungo, l'avessi salvato la macchina in tempo, l'avrei vinto, che cosa, ecco, errori che ho fatto, ma quello che è accaduto in fondo mi ha dato anche la soddisfazione di essere riuscito a trasformarla in un'opportunità. Ecco, certo, io credo che perdere le gambe non si presentava in quel modo, no, quel giorno, però è diventata poi forse la più grande opportunità della mia vita. Lo dico spesso anche ai ragazzi quando vado a parlare nelle scuole. Ragazzi, se voi riuscite a trovare la piccola sfida nello studio della matematica, delle scienze, della tecnologia e di altre cose, e portate a casa qualche cosa, poi il giorno dopo è naturale che vi venga voglia di rilanciare. Ci sono riuscito io a rendere appassionante, certo, quello che dovevo fare. Potete farlo voi. Dopo aver perso le gambe, potete farlo anche voi, e facendo così riuscirete anche a costruire quegli strumenti che, utilizzati in un modo diverso, vi faranno vincere delle sfide magari più ludiche un giorno nella vita, più piacevoli, come lo sport, certo, certe attività professionali. Senti, quant'altro. Ma è l'amore? E l'amore di tua moglie, questa lotta per la vita, quanto ha contato? Beh, è il pilastro più solido che tiene su tutta la costruzione della mia stessa esistenza. Sì. E Daniele è una donna che, oltre ad essere una persona dolcissima, è anche estremamente complementare al sottoscritto per carattere, per modus operandi. Lei mi richiama all'ordine, ha sicuramente più testa di me. I miei amici mi dicono che io, quando sto con lei, scollego il cervello, uso il suo che mi conviene. Altri mi dicono che l'ho sposata per risparmiare sullo stipendio. Insomma, c'è sempre stata una donna molto pragmatica che, anche nelle circostanze molto molto difficili legate al mio incidente, ha saputo prendere delle decisioni che si sono rivelate poi fondamentali. È stata lei a chiamare il dottor Costi, a dire: Claudio, vieni su che abbiamo bisogno di un direttore numero tecnico. Numero uno. Senti, ma cosa vorresti essere sicuro di aver insegnato a tuo figlio? Beh, mi piacerebbe tantissimo che lui potesse capire il valore di riuscire a trovare delle passioni nella vita. Poi ci provo, perché comunque lui fa spallucce tante volte di fronte ai miei insegnamenti, spallucce. Ma come lo facevo io con mio padre, salvo che poi prendo in mano un attrezzo e, senza nemmeno rendermene conto, guardo la mia mano e mi viene la pelle d'oca perché rivedo la mano di mio padre. Sto facendo quella cosa esattamente nel modo in cui lui me l'aveva insegnata. E lì nasce la speranza, perché dici: la stessa cosa. Sì, lui fa esattamente quello che facevo io, però speriamo che qualcosa passi, come è accaduto con mio padre e Alessandro Zanardi. Grazie. Mix 24. Beh, siamo sommersi dagli sms per Zanardi, ci fa piacere perché è un grande uomo. Che titolo fareste, Mario Pietrangelo, per l'intervista a Alex? Beh, vai tu, Pier. Comincia tu. Vabbè, e io farei una freccia di vita. Fantastico. Una freccia di vita. Grande entusiasmo, bello. E tu, Pietrangelo? L'avanzata. Andiamo con la tua canzone. Com'è bella la vita, seduta lì, che ci mette nel sacco a turno qui. E com'è bella la vita, seduta lì, in divieto di sosta, zona venerdì. Beh, Pietrangelo? È perché seduta in zona venerdì, oltretutto in divieto di sosta, la vita raduna brividi ed emozioni. E anche una mattina umida di mercoledì già diventa presagio di zona venerdì, come nelle parole di rabbia di una donna cantate magistralmente, evocate in modo così perfetto da Loredana Bertè. E queste parole di rabbia sanno trovare maggio anche nel più corto febbraio di pioggia e di scarso sole. Un'armonia alza lo scontento, sepolto in quel deserto troppo spesso rinnegato, dice lei, dice la canzone, e la canta con un vigore, una forza da brivido, rinnegato da un vigliacco che è scappato attraverso stanze vuote di una sposa senza dote. Zona venerdì, Loredana Bertè. La playlist di Pietrangelo si allunga e si completa. Intanto sentiamo quella di Mario con le sue bolle. Ah, siamo in Grecia di nuovo. Eh sì, oramai. Mediterraneo, Mediterraneo. Senti, senti. Oh, io pensa se cari mentre balli così. Mamma mia. Mamma mia, vabbè. Allora, volevo solo aggiornarvi un po' sullo stato dell'arte della Grecia. Grecia, BCE, eccetera. Dovrebbe esserci un incontro tra il ministro delle finanze greco, Varoufakis, lo scravattato, con Mario Draghi, che invece la cravatta la porta, il capo della BCE. E... insomma, Varoufakis è un tipo un po' curioso, eh? Descrive la politica fiscale europea come un fiscal waterboarding, e ho detto tutto, andate a vedere che cos'è il waterboarding, adesso non lo ripetiamo, e ha scritto un libro di economia intitolato Il Minotauro Globale, quindi vi faccio già immaginare che cosa dice, e il suo piano di fare del debito greco un prestito da rimborsare a seconda della crescita, insomma, non convince nessuno. Lo ripetiamo, pensate se questo piano fosse stato applicato all'Italia, che non cresce da un numero di anni. Staremmo benissimo, non avremmo mai dovuto rimborsare una lira. Esatto. Mi sembra un'ottima idea, francamente. Un'ottima idea, sì. Allora, Varoufakis, tra l'altro... Sta un po' sulla linea di Guarino, Varoufakis, mi pare. Nah, secondo me no. Guarino è una persona seria. Qua siamo un po'... secondo me siamo all'improvvisazione, al potere. Però, detto questo, bisogna rispettare, come si dice, ciò che ha deciso il popolo greco. Il problema è che Varoufakis vuole anche un altro prestito ponte da 10 miliardi. La BCE però resiste 10, ma qua non sappiamo neanche come andate avanti a fare il prossimo salvataggio, il bailout, che scade adesso a fine mese. Loro dicono di avere fondi sufficienti per andare avanti fino a giugno. Secondo però buoni osservatori, questi purtroppo fanno crack prima, anche vabbè, perché vedremo, potrebbe diffondersi, Mario, ecco. Vedremo. Vuoi sentire un commento di Gordon Gekko? Sì, fammi sentire. La gente povera, furba e affamata, senza sentimenti. A volte vinci, a volte perdi, ma continui a combattere. E se vuoi un amico, prendi un cane. Chiaro, no? Chiarissimo, Salamini! Salamini nei dizionari, vocabolari tra gli insaccati. Allora, dopo gli yeah, yup, yuan, insomma questi tipici intercalari del piritollese, ovvero la neolingua del regime, incontrando ieri Alexis Tsipras, Matteo Renzi ha dovuto confrontarsi finalmente con uno più a sinistra di lui e finalmente coprirsi in Italia, dove è considerato di destra, e fare al contrario, e qui siamo nella piena peripotesi, quello di destra in Europa, dove è considerato troppo di sinistra. Insomma, carico di patate, da cui trae sempre spirito, Renzi si è presentato al colloquio da perfetto ragazzo di liceo. Dopo il liceo che potevo fare? Non c'era che l'università. Ma poi il seguito è una vergogna. Sono fuori corso qui in facoltà e me lo voglio dimenticare. Senza vergogna e ben lieto di qualunque fuoricorso ha affrontato degli speech in lingua inglese, affrontando poi gli effetti maccheronici. Insomma, lui ieri è arrivato all'incontro con il Rocci, da lui definito vocabolario italo-greco, confondendolo di sicuro con il, che sarebbe il famoso Castiglione Mariotti di latino, certo, già modello per i giornalisti renzofili per ricavarne il Renzi. Il Renzi. Il Renzi, ricorderai Mario, uno dei libri fondamentali per studiare la lingua piritolla, tutta yeah, yep, yup, yam. No? Allora, e allora? È il testo dove è illustrato al meglio il genio di... ecco, il genio... sogno, la luminosa prospettiva, il miracolo chiamato Renzi Matteo. Insomma, alle corte, Renzi ha parlato a Tsipras con il canovaccio della quarta ginnasiale. Eschilo, che qui si Sofocle, attento alle scale troiche che sono Euripide, perché se sfori Tucidide. Dopodiché è intervenuto Filippo Sensi, che è il portapiritollo, che ha scaricato il discorso nel traduttore dell'iPhone ed è stata subito diffusa la nota. Yep, yup, yeah, yaun. Abbiamo un ritmo che fa e questo ritmo vabbè. Ottimo, Mario, no? Mario, tocca ancora a te con una bolla, va? Vai con la realtà. Questo è Calvin Harris, fa ballare milioni di persone, Giovanni. Blame, vai, sentiamolo ancora un po'. Ancora un po'. Wow. Allora, andiamo a Wall Street, ma? Perché, visto che Gordon poi lo abbiamo evocato e quindi siamo direttamente downtown e quindi nel mercato, segnalo che Standard & Poor's, ti ricordi le agenzie di rating? Certo. Insomma, ha raggiunto un accordo giudiziario con il governo americano, multa da 1.4 miliardi di dollari. Perché? Per aver dato al rating erano leggermente... Perché dicono bugie? Erano leggermente inattendibili. Diciamo che dicono bugie. E allora così io ripeto la cifra. 1.4. Quindi insomma non c'è dollari. Proprio da angosciarsi tantissimo, no. Quando danno le loro valutazioni. Io li prendo per quello che sono ormai, quindi. Degli indicatori generici così. Senti, meglio guardare il frigo per vedere lo stato dell'economia. Quanto riesci a comprare. Senti, esatto. Intanto Sara Tardelli, la sua quota rosa, che ci racconti? Nessun dorma, nessun dorma. La Turandot di Giacomo Puccini. Davvero very bella. Quando l'ascolto, e adesso sono seria, mi sembra che l'Italia non sia un piccolo stivale rattoppato in fondo all'Europa. Mi sembra gli Stati Uniti d'America, mi sembra la Germania con in più la Gran Bretagna. La Turandot in tutta la sua bellezza dovrebbe debuttare alla Scala di Milano lo stesso giorno dell'inaugurazione di Expo, il che ha un senso. Dovrebbe insomma debuttare il 1 maggio. E invece no. I lavoratori della Scala dichiarano: il 1 maggio è una data indisponibile ad ogni trattativa. Ma chi se ne frega se c'è l'esposizione universale a Milano? Mica è colpa loro, se l'ultima volta che in Italia c'è stato l'Expo era il 1906. E no, pare che alla Scala, in questi giorni, tutti si facciano la stessa domanda. Essere o non essere? Che devo fare? Ma lo devi? Devo combattere i dardi dell'avversa fortuna? Oppure bagnarsi in piatto le gocce di noci? Ditemi qualcosa. Morire? No? Dormire? Magari, Se si lavora il 1 maggio, capite che il lavoratore assunto, magari anche a tempo indeterminato, e che magari fa anche il mestiere che sognava da bambino, perde la sua identità. Mica vogliamo mostrare la potenza e le potenzialità della cultura italiana al mondo. Alla faccia delle partite IVA che non hanno nessuna tutela e che anzi sperano di poter lavorare anche il 1 maggio. Mix 24. Il canzoniere. Non chiedo nulla a nessuno, io sono senza un amico, ma non un amico che sappia raccontare la mia storia, un amico che mi preceda dappertutto per evitarmi quelle spiegazioni che m'ammazzano. Non c'è una che sappia gustarmi. Ah sì, un'infermiera. Un'infermiera per amor dell'arte che conceda i suoi baci soltanto ai moribondi. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, gli sms per chi vuole telefonare o scrivere per indovinare. E intanto vorremmo la prossima bolla di Mario. Vai. C'è un dollaro d'argento sul fondo del sangue. Allora, questo è un poeta del Novecento, André, lo conoscono tutti. Chi non lo conosce deve conoscerlo. Questo è un pezzo straordinario, si chiama Fiume Sand Creek, racconta della guerra, degli indiani, dei generali. E insomma, entriamo nel territorio dell'orrore. Gli orrori sono quelli della guerra in corso in Siria e in Iraq, che ormai è diventato un enorme conflitto regionale, che si sta allargando a macchia d'olio. A questo punto entrerà anche la Giordania dopo quello che è successo ieri, dopo questa cosa orribile, incredibile. Questo è veramente incredibile. Incredibile. Questo merita non una riflessione, merita un'azione. Cioè, secondo me, e secondo chi guarda queste cose con professionalità e attenzione, fa analisi, siamo vicini a un disastro, è una guerra, non l'abbiamo capito, la stiamo perdendo se non agiamo. Certo, dal punto di vista anche della cultura, ovviamente, certo, la nostra posizione è davvero inspiegabile. Inspiegabile. Mi ricordo una frase di Franklin Delano Roosevelt che diceva: nell'agonia, nel dolore della guerra, quando tu hai un grande potere, hai anche una grande responsabilità, e qui bisogna decidere se questa responsabilità ce la vogliamo prendere o no. Certo. Quello che sta è scabroso, le donne studiar, scabroso il tema, perché poi la chirurgia estetica, i ritocchi nelle parti anatomiche. Il cardinal Ravasi giustamente ha detto che tutto quel trafficar di bisturi non produce altro risultato che un burca di carne. E quando si dice intervenire sulla interconnessione neuronale, siamo di fronte ad ambiti che hanno ridondanze delicate sul piano etico. Insomma, dalle rotondità si arriva ai neuroni, e il corpo delle donne lascia il se non ora quandismo per arrivare tra le braccia della Chiesa. Ma l'esplorazione, tutto quell'esplorare presuppone uno stupore. La mia mano te scrutau e la geografia imparau. Monte Rosa, Fred con gusto aveva capito tutto. Stiamo ascoltando Malizia, e con Malizia aveva comunque fatto una lezione di geografia, laddove sono sempre le mani a dover imparare questa scienza necessarissima. E la dichiarazione del principe di Santa Romana Chiesa agita adesso le signore d'Italia. Daniela Ranieri offre una dotta interpretazione, e non si può non riprendere nella stessa pagina sul fatto l'intervista di Alba Parietti, dove argomenta con logico: una donna deve affidarsi al restauro di un grande artista e non di un imbianchino, oppure, mi permetterei di suggerire ancora una volta, per tramite di Fred Bongusto. La mia mano te scrutau e la geografia imparau. Monte Rosa, mi sembra che Alba Parietti nel corso del tempo abbia cambiato tante volte opinione su questo punto, per su quanto la tema. Riguardava, anche se Nancy Brilli poi alla fine ha detto: ma insomma, se mi aiuta a sentirmi meglio, perché no? Oggi, subito dopo il giornale radio, la storia a cura di Marina Milone è dedicata a un uomo politico, un sindacalista che ha dedicato la sua vita alla lotta contro la mafia, Pio La Torre. Sei in una città come Palermo, chi dirige l'amministrazione comunale decide di creare il regime della giungla,